La felicità è molto di più che la semplice assenza di disgrazia. Vi siete mai sentiti dire divertiti fino a che sei in tempo? Prendila con filosofia, abbi fede. Dopo i 40 è difficilissimo perdere peso. Attento! Ognuna di queste frasi rappresenta sicuramente, per chi te l'ha proposta, una verità sperimentata e indistruttibile il più delle volte. Ma quelle frasi, quelle parole, che valore hanno per te? Su che parola ti sei sintonizzato? Su che frase ti sei sintonizzata? Sei al corrente che le parole pesano come macigni e possono rappresentare una vita felice a seconda di quali sceglierai di utilizzare ogni giorno nella tua vita? Ecco l'esercizio di oggi. Scegli quattro persone. Una sei tu, una è all'interno della tua sfera lavorativa, una persona è all'interno della tua sfera di cuore, d'amore, e una persona rappresentata da un tuo figlio, da un tuo fratello o da un tuo amico. Ora pensa a qualcosa che hai detto loro di recente, ad ognuna di queste quattro, compresa te stesso. Hai detto loro cose negative o cose positive? Al tuo collega, alla responsabile del lavoro, alla persona che ami, a te stesso, al tuo amico, al tuo figlio, cosa hai detto di più? L'esercizio è molto semplice, perché ora traccerai una linea verticale da una orizzontale. A sinistra metterai tutte le parole positive e a destra tutte quelle negative. Il rapporto che ne uscirà consisterà di una frazione dove al numeratore hai la somma delle parole positive e al denominatore la somma di quelle negative. Il risultato della frazione ti indicherà se, attraverso l'utilizzo delle parole che usi, cresci quotidianamente oppure no.